Buonasera. Facciamo giro, facciamo un po' di turnazioni stasera, che è una festa per tutti. Come sono vestito? C'ho la maglietta più bella di tutte, ragazzi. Sto patendo il freddo per far vedere la maglietta. Grazie, scusate il fisico, ma c'ho un fisico da sollevatore di polemiche, mi dissero una volta. Ma questa è un'altra storia. Allora, io l'anno scorso ho letto delle poesie di Trilussa, perché amo molto Trilussa, poi ho scoperto che c'è in programma una fiction interpretata da Michele Placido, e quindi ho cambiato autore. E volevo farvi invece conoscere un grandissimo autore che si chiama Mauro Marè, e che era un notaio che è morto nel 93 e che si dilettava a scrivere delle poesie molto belle. Chiaramente in questa nostra lingua che ci piace tanto, e quindi vi volevo leggere, avvalendomi del maestro, di un po' di poesie. Comincio con Er cinematofrego. Per millanta e millanni che non c'ero, ho visto tutto nero. Ma un giorno ho visto il giorno, come un film a colori. Uno stravede la zinna, la bobona, il giocarello, il cielo super aria, la commare col culo a contrabbasso, il sole, il mare, la processione, il santo, le frittelle, i rigatoni al sugo, la sediola, le scampagnate, l'arberi, le stelle, er lecca lecca, le botte, la scola, la maestra ragazza, er mannolino, l'uccello, er padre eterno, er pane, er vino, le seghe, la funzione, l'oratorio, la fregna. Ora Pronobis. Il casino, la fregna, il paradiso, il purgatorio, il servimessa, la fregna, il pallone, la maga circe, la fregna, Platone, il comunismo, la rivoluzione del monno, un culo tonno tonno a quel dio bionno, la voglia da rinasce, la pigione, la socera, i debiti, la fre... Che bel cinematofrego! La luce in sala, s'aprono le porte, aspetti il bibitaro e arriva quella stronza della morte. Allora, un'altra che volevo leggervi è Amore contro voglia. Qua ora faccio un paio senza avvalermi e poi riprendo ad avvalermi. Allora, Amore contro voglia. Te voglio bene, li mortacci tua. So bello è fatto, va a morire ammazzata. Quando me guardi, brutta svergognata, mi pare d'esse un pupo con la bua. Me fai l'effetto del sangue dell'ua, che fa la vita come un'infiorata, e poi dopo te dà una tortorata che lassi un monno e ne ritrovi tua. Tu dimmi, si un gargante, fumantino, tozzo, panche, cazzuto, rocchettaro, che sgassa, sgomma, impenna il motorino, con miardi de borchie sur gilet, sa da sentino stronzo paninaro dietro a una madonnella come a te. Come avrete capito, gli piace molto il romano, a Mauro Marè, e i suoni che c'ha il romano, no? Perché è una lingua veramente sonora, E quindi questa vi leggo una poesia proprio sulla lingua romana, si chiama Una linguaccia, no? Su che è proprio sto romano come lingua. Allora dice così: sozza, boia, balorda sta linguaccia romanesca, che non c'è poi fa un volo più su di uno starnazzo. È buona solo a pià tutto il mondo a pesce in faccia. Ogni parola un sercio. C'ha la fionna e romanaccio in bocca. E per la rabbia dei secoli passati chiuso in gabbia, ogni botta una tacchia. Tonna tonna. E dentro ci risona il travertino delle colonne, il granito, il basalto. E l'urlacciacci de Mazzola e Squarto del tempo del governo papalino. È una lingua, per Dio, che taglia e cuce, che strilla, che zagaia e non s'abbacchia, e che ammettegli addosso la mordacchia, non furno boni né papa né duce. Lingua de stocco, lingua scellerata, lingua che se per caso ti innamori, te more in petto e non te sorte fuori, altro che un fiotto va a morì ammazzata. E chiacchiero e me sciacquo in bocca il sasso. Il verso sputa in faccia la poesia. Scrivo per tigna e per coglioneria con la mancina e con la dritta a scasso. Allora, chiudo con questa e poi ci rivediamo con Marè dopo. Si chiama Mesto Zitto, che è un atto di protesta proprio bellissimo. Breve. Mesto Zitto. Da che il sole s'appolla in cielo, a che tracolla diluviano sul monno le parole. Ma ce ne fosse una sola che va in panza alle cose, che dà in culo alle stelle. Cara vecchia parlata, pietre, breccole, serci, San Pietrini, mo in bocca l'acqua Paola. Ma parlatela voi la lingua. Io, per dispetto, me sto zitto in dialetto. C'è una special guest, Elio, che ora arriva. Eccolo. Ecco, questo ci tenevamo. Oh. Allora. Innanzitutto facciamo un applauso a Paola Minaccioni che è venuta all'improvviso, ci ha fatto regalo. No? Eh no. Faccio pure. Allora. Facciamo, vai. Sì. Allora, er bon padre spirituale. Tocca far prete. Sì. Ah, sì, è una ragazzina e un sacerdote nel momento della confessione. Accusati, figliola. Mi vergogno. Niente. Ti aiuto io con tutto il cuore. Hai dette parolacce? A un bel signore. E cosa, figlia mia? Brutto carogno. Hai mai rubato? Padre, sì, un cotogno. E a chi? Arzartitta. Figlia, fai l'amore? Padre, sì. E come fai? Da un cagatore, ciarlamo. E che dite? Quel che c'è bisogno. E la notte? Dormi sola? Padre, sì. E c'hai pensieri cattivi? Padre, oibò. Dove tieni le mani? O qui o lì. Non ti stuzzichi? E cosa stuzzica? È che è lì, tra le cosce. Sino adesso no, ma stanotte ci voglio un po' provare. Questa è la seconda puntata, invece. Sì. Anni dopo. Anni dopo, il confessore. Padre. Dite il confiteor. L'ho detto. L'atto di contrizione? Già l'ho fatto. Avanti, dunque. Ho detto cazzo matto a mio marito e gli ho alzato un grossetto. E poi? Per una pila che mi roppe il gatto, gli disse fuori di me: sì, maledetto! È creatura di Dio. C'è altro? Tratto un giovenotto e ci sono ita a letto. E lì cosa è successo? Un po' di tutto. Cioè? Sempre mi immagino per dritto. Puro a riverso. Questo è peccato brutto. Dunque, in causa di questo giovanotto, tornate, figlia mia, con cuore trafitto, domani a casa mia verso le 8. Senza morire sono arrivato, visto? Fa sempre più freddo, ma in solidarietà con chi resiste sotto. Ti ridò poi quella cosa che ti ho promesso. Allora, continuiamo. Io vi leggo altre tre cose di Mauro Marè. Vi leggo tre cose su Roma. La prima si chiama Oscenufreggi e parla di questa Roma un po' sbudellata da tutto e tutti, depredata, no? Da imperatori e sindaci. E fa così. Oscenufreggi. Marmi, colonne, attigna con la notte, come morti sorrisi bianchi, come li coccodrilli ciechi dentro alle fogne di Nova York. E a Roma ci sono certe sorche nere come pantere, strade come gruviere. Ave cielo tosto, forte e tonante come il chiodo del burdozze che scenufreggia, sciupa, sbiossa, strazia, incarca, spigne, sbatte, sfregna tutta la città. Sciatta a panza per aria, come ce gode sta brutta troiaccia a fasse sbudellà. E queste sono altre due cose molto poetiche, secondo me, su Roma. La prima si chiama Tutto inferno. Tutto inferno. Maria sto cielo in petto e ma respira. Stella del monno, stalla, Roma chiavica, gran massima cloaca universale, aria in guazzetto, bucatini e nuvole, fori, monnezza e gatti, un nausoleo de tanta antichità. Chi non te sputa in faccia è in gran boiaccia, beato chi te cunnola. Onna d'un verso dal tufello al mare, schioppacore, allegria dalle de rondini, non sviolinà de stelle a chiara sera, bocche allancate de bacià, chimere dentro a grugni inserciti, scivolarelli amori sulla fanga del fiume, il correntino è un fir che se smatassa e te gnommera il core. Omini magna ombra, suga scoregge, tonfi, trionfi e tanfi de somari vapore. Millanta campanili in panza al cielo e noi antri all'inferno con l'aureola. E volevo chiudere con questa che è la mia preferita, si chiama Un gioco. Cammino e il cielo è fanga, acciacco nuvole, sotto alle piante un friccico, come d'un chissà quale aricicciacco. Amore che sempre mente e mai ragiona. Io te portavo la luce con le orecchie, fino a restare all'oscuro. M'ho finito il tempo, senza mai nessuno che mi chiede corè. Io sto a Roma, Roma, millanta strade e manco una ave prescia d'annà. Da solo un gioco. Adesso, per aria il core, e io gli volo appresso. Questo era Mauro Marè. Allora, siccome ho sentito qualcuno che diceva cose tipo roscio, qualcosa del genere, io vorrei chiamare un vero roscio qui sul palco a leggere una recensione. Elio, ci sei? Perché questa è una cosa che insomma non tutti sanno, ma Elio Germano è roscio. Ma avevo detto di non dirla sta cosa, comunque vabbè. Allora, questo è un film che ho fatto, va bene? Che ha scritto chiaramente: magnifica presenza. Nella casa in cui dimoro ci stanno gli mortacci loro. C'è sta un pischello che va a Roma e vuol fa l'attore, ma non c'è poi riuscì benissimo, perché infatti purtroppo è roscio e manco poco. E allora lui va con la cugina ingrifata a cercarsi una casa, e allora poi va a vivere a Monteverde Vecchio, ma però de notte sente una voce che gli dice: Aroscio, io sono il fantasma attore de Monteverde. E allora Aroscio gli dice: ah, Nanni Moretti, mortacci tua, ma che me fai scherzi? E allora però invece scopre che drento a sta casa c'è sta tipo popo come una banda di attori fantasmi, che mi sa tipo che l'avevano uccisi un sacco di tempo fa, perché si vede che avevano fatto una fiction de merda. E allora poi infatti gli imparano a Roscio a recità, a fa l'attore, a fa i provini per le fiction. E poi una notte a Roscio gli compare il fantasma chiacchierato che gli dice: a Roscio, io so fantasma, ma stai sempre attento a come te giri, che qua sono 60 anni che andiamo in bianco. E allora poi c'è sta la cugina ingrifata che aspetta un figlio, E Roscio gli dice: oh, e di chi è? E la cugina ingrifata gli risponde: che ne so, con tutti sti fantasmi che girano per casa qua. Comunque, a mio cugino gli hanno chiesto 1.000 euro al mese per un monolocale. E lui infatti gli ha detto i morti. Sì, ora devo coprire questo vuoto. La sapete quella di... Vuoi dire qualcosa, Eleonora? Vieni, vieni.